Oasis, La Manaya Production, Carne Grammy Sound. Resta giù col morto, brucia il cielo ed il tuo sogno. Aspetti un segno dall'inferno, guarda gli angeli morendo. Dalla nascita alla crescita è tutto un giro tondo, nel decesso e nella perdita. Resta il necroloquio. Resta giù col morto, brucia il cielo ed il tuo sogno. Aspetti un segno dall'inferno, guarda gli angeli morendo. Dalla nascita alla crescita è tutto un giro tondo, nel decesso e nella perdita. Resta il necroloquio. Questo ultimo atto dagli spalti, ultima fila, controversi 4-6. Sette bestie nere in tutti i miei riflessi. Dalla mia zona ogni persona, ogni puttana. E ogni volta che sto in coma, ogni grana che mi sfiora. Da una lama alla gola, col magone di riuscire a risvegliarmi ancora. Ancora vivo scritto sulla pelle, suona una bestemmia da sacro a profano. Non son sacro, resto macabro. Tazza boia il calibro alla Grammy Click Street Sound. Ai miei morti 20 hands underground. A mio padre in cielo resto vero, resto fiero. E non dimentico, sai che resto ti vivo dentro ai domani, ai miei giorni, agli infami, ai ferri corti. Senca pesta, stesso sangue nella testa, stesso obiettivo, poca festa. E vino mario innesca dinamite e rap sopra il palco. Morto che parla come sbatto. A we do it, sono stronzo e non vengo a fare il pazzo. Impreca il cielo avverso per ogni torto a me. Il tuo Dio che mi ha reso, solo io me l'ho ripreso. Cristo, perché nessuno deve nulla, nessun sconto. Questa è tazza boia, Jose Cuervo, passo e chiudo il necro. Resta giù col morto, brucia il cielo ed il tuo sogno. Aspetti un segno dall'inferno, guarda gli angeli morendo. Dalla nascita alla crescita è tutto un giro tondo, nel decesso e nella perdita. Resta il necroloquio. Resta giù col morto, brucia il cielo ed il tuo sogno. Aspetti un segno dall'inferno, guarda gli angeli morendo. Dalla nascita alla crescita è tutto un giro tondo, nel decesso e nella perdita. Resta il necroloquio. Sparami l'ultimo colpo, non starci molto, è troppo il peso che porto. Grazie a qualche santo se lo sopporto in volto. Disegnato lo stato di un 23enne che perenne incasinato. Vuoi confermi? Allora chiedi all'altro lato. Sai che vuol dire fare e rifare sempre. Puoi non credere a quello che hai fatto, passato di menti. Avere 7 giorni alla settimana, 7 che ti vada tutto bene. Siete un po' di tempo che non vi si vede. Chiuditi in casa che è il caso. Se c'hai la nausea e sei vaso, per la tua causa hai lasciato che traboccasse il vaso. E che viviamo una vita sempre diversa da qualunque altro stronzo. Potresti perdere la testa. Big up ai soliti, fottuti i miei uomini. Cuori nobili, scomodi, maledetti, malati cronici. Morto che parla sa chi, vale qualcosa per chi. Vale la pena spezzare una lancia, sentimi. Non giocarci troppo con il diavolo. E non pensare che siano cazzate se ti dico ammazzalo. Un'altra storia dall'inferno si conclude. Niente scuse, niente muse. Urla alte, niente bocche chiuse. Resta giù col morto, brucia il cielo ed il tuo sogno. Aspetti un segno dall'inferno, guarda gli angeli morendo. Dalla nascita alla crescita è tutto un giro tondo, nel decesso e nella perdita. Resta il necroloquio. Resta giù col morto, brucia il cielo ed il tuo sogno. Aspetti un segno dall'inferno, guarda gli angeli morendo. Dalla nascita alla crescita è tutto un giro tondo, nel decesso e nella perdita. Resta il necroloquio.